Siamo scattati un po' davanti a Dio? Vi siete scattati, ok, dato che non rispondete. Io chiamo avanti i miei due valletti. Ah, non sono io. No, non sei tu. Vieni, fate quello che dovete. Ah. Vabbè, basta che vi decidete. Allora, adesso distribuiranno a caso, molto casualmente. Andrea, te ti hanno dato quella proprio... No, questa è la tua. Vedi, intanto comunque non ci serviva niente, Andrea. Anche intera non ci serviva niente. È un po' strano, sono molto provato dall'essere qui, perché ho preparato qualcosa, ma in realtà non so neanche se devo dire quel qualcosa, se devo seguire tutto quello che in realtà ho previsto di dire. So solo che mi premeva forte ripetere una parola che ho ricevuto durante la preghiera stasera. Per quanti di voi non vengono alla preghiera del pre-live, mi dispiace per voi, perché viviamo davvero un bellissimo tempo come gruppo, e lì ci sono i veri upside down. Quindi, se ti senti davvero un upside down, vieni alla preghiera prima del live. Non ti costa niente venire mezz'ora prima e stare insieme a noi e pregare insieme per quello che ci sarà. Per quanti c'erano alla preghiera, io ho ricevuto una parola. Questa parola diceva praticamente, perché si muove leggi. Questa parola diceva: io, Dio, voglio scavare nella tua vita, e ho iniziato a scavare nella tua vita. E se vuoi che io possa mettere delle fondamenta solide, resistenti, che sono profonde nella tua vita, preparati, perché mentre scaverò troverò degli scheletri che tu hai nascosto sottoterra, e quegli scheletri non ti piacerà vederli e non ti piacerà ricordarti di quelle cose che tu avevi cercato di dimenticare, però io volontariamente voglio ricordarti quelle cose, non per farti star male, ma per smascherare e per svergognare quelle cose che tu hai nascosto nel tuo profondo, affinché dove ci sono le mie fondamenta non ci sia nient'altro che non è secondo la mia volontà. Amen? Quanti si sentono questa parola per se stessi? Io me la sento. È un po' di paura, sinceramente. Allora, avete ricevuto tutti quanti la vostra bella fogliolina? Aspetta, mi sono dimenticato una cosa. Vabbè, dai, dopo. Mi dispiace non avervi dato una foglia vera di fico. In realtà ho girato mezza campagna di Modugno per cercare un albero di fico con le foglie, ma mi sono ricordato che è inverno e che le foglie non ci sono più in realtà. Quindi mi sono prodigato oggi pomeriggio a disegnare le foglie di fico e a ritagliarle. Quindi se sono brutte, accontentati. Tanto comunque non ti serve a niente. Allora, iniziamo dalla Genesi, quindi iniziamo proprio dal principio. Genesi 3, 7. Ci siamo? Lo leggiamo insieme. Allora si aprirono gli occhi. Ragazzi, lo leggiamo insieme, non io al microfono. Come ha detto Mario, lo leggiamo insieme. Sto scherzando, lo leggo io. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono le loro foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Quando ho letto questo, e non è tanto per questo che avete la foglia di fico, poi lo vedremo, a me ha fatto molto riflettere nel versetto 11, quando dice: chi ti ha mostrato che eri nudo? Chi ti ha mostrato che eri nudo? Che cosa ti ha fatto sentire nudo? Cosa ci fa sentire nudi oggi a noi? Ci fa sentire nudi il fatto che abbiamo qualcosa da nascondere. Quando il peccato entra nella nostra vita, ci rendiamo conto di essere nudi, ci rendiamo conto che non siamo più totalmente trasparenti e ci vergogniamo di quello che abbiamo fatto, ci vergogniamo di quello che abbiamo pensato, di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo vissuto, e la prima reazione che ci viene da fare è nascondere, in questo caso Adamo ed Eva hanno nascosto il loro, diciamo, organo genitale perché si sentivano nudi. Però noi cosa facciamo? Ci nascondiamo da Dio, nascondiamo tutto quello che abbiamo vissuto e lo nascondiamo dentro, nel più profondo del nostro cuore. Quando tu sai che, quando tu conosci tuo padre, quando tu conosci una persona, sai benissimo che c'è qualcosa che tu non devi fare, ma non perché te l'ha detto tanto per, ma perché sai che quella persona ti ha detto di non fare quella cosa per un preciso scopo. Però tu la fai e poi ti nascondi perché non ti vuoi far vedere. Secondo voi Dio sapeva che Adamo ed Eva, cioè secondo voi Dio non sapeva che cosa avevano fatto Adamo ed Eva prima di chiedere che cosa hai fatto, dove sei? Certo che lo sapeva, è normale che lo sapeva, però voleva comunque interrogare Adamo ed Eva perché voleva vedere che reazione avessero loro. E la prima reazione di Adamo ed Eva è stata quella di nascondersi. Vi leggerò una storia, un piccolo pezzo di una storia, brava Sara. Non doveva mettere la prima parte, però va bene. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Facciamo un attimo di attenzione. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? E dove fuggirò dalla tua presenza? Che salmo è questo? Ho sentito 132. È il salmo 139. Ed è bellissimo leggerlo in questa maniera. Ancora più bello, la canzone è fantastica, però è ancora più bello leggerlo così, perché possiamo vedere davvero il cuore che Davide aveva. Dio mi conosce e Dio sa perfettamente tutto quello che io vivo. Sa quello che ho dietro e sa quello che sta davanti a me. Il nostro cuore è come una casa, ok? E io chiedo a Sara di mandare l'immagine, una delle due immagini. Si può abbassare un po' le luci vicino al... Non so se si vede bene. Che cosa è? Ok, sicuramente non si vede bene, e questo è normale. Manda l'altra immagine, Sara. Oh, questo si vede meglio, che cos'è? Sì, c'è uno spirito. Quello, ora vi spiego io che cos'è. Il nostro cuore, per come la penso io, non per come la penso io, è pieno di stanze in cui noi, come una casa, quindi quando tu vai a casa di una persona, se tu vieni a casa mia, Io ti accolgo a casa, nell'ingresso, quindi tu vedi tutto luminoso, entri dentro casa mia, c'è l'ingresso, poi io faccio il cicerone e quindi ti dico, vieni qua, guarda, qua c'è la camera da letto, bella, bella, bella. Poi ti dico, guarda, qua c'è il bagno, beh, bellissima. Poi vai avanti, giri e dici, ma guarda qua, c'è la mia cameretta, non quella di mia moglie, la mia cameretta, che è quella dove io suono, dove faccio tutto, bellissima, con lo scudo di Capitan America appeso, troppo bella. Poi andiamo avanti e facciamo, guarda qua, è la cucina, ma bellissima la cucina. Poi arriva il fiore all'occhiello di casa mia, per me, che è il mio soggiorno. Siamo molto fieri del nostro soggiorno, dato che è la parete più scattosa della casa, un blu che ti entra nell'occhio appena entri, e ti trovi questo soggiorno, molto luminoso, molto bello, poi de gustibus, può anche non piacere, e trovi tutto bello. C'è a casa mia però un'altra stanza che, diciamo, se posso evitare di far vedere le persone, evito. Non perché c'è qualcosa di che, però perché non ha molta importanza. Questa stanza è il ripostiglio, ok? Quindi quando tu vai a casa tua, non mostri alle persone tutta la casa, ma cerchi di evitare di mostrare la parte peggiore. E quello che è questo non è un ripostiglio. Questa è la stanza più buia, più nascosta e più intima del tuo cuore, in cui tu tutto quello che hai dentro, tutto quello che vivi, tutto quello che hai vissuto, che pensi, che fai, che non ti piace, quindi che non vuoi mostrare agli altri, lo prendi e lo butti qua dentro. E quindi noi gettiamo proprio il lato peggiore di noi qua dentro e buttiamo i nostri peccati, i nostri pensieri più impuri, buttiamo tutte le volte che abbiamo sbagliato, le bugie, tutte le cose davvero peggiori che se una persona conoscesse di me direbbe, mo c'è schifo di persone che... perché vedrebbe tutta questa parte così negativa, così brutta, che a me non piace mostrare. E quello che io pensavo quando dovevo prepararmi su questo è che molto spesso noi ci troviamo da soli nella nostra cameretta, e mi scuso anch'io se sarò un po' crudo, però davvero sentivo di farlo perché tanto è grande la bugia del diavolo e tanto grande deve essere smascherata nella maniera più cruda e nuda possibile, secondo me. Quando tu sei da solo nella tua cameretta e sei davanti a un computer, ti trovi a... la maggior parte dei ragazzi si trovano in difficoltà con un computer, con uno smartphone, e non c'è bisogno neanche il perché io vi dico questo, non c'è bisogno neanche l'esatto punto. Sapete benissimo qual è il problema. Quando sei in bagno, sai quello che succede. Quando sei in macchina con il tuo ragazzo, con la tua ragazza, sai quello che fai. E sai che quello che stai facendo magari non è proprio bellissima come cosa. Infatti cerchi un posto più buio possibile, cerchi il posto più isolato così nessuno ti può vedere. Ma tu pensi davvero che nessuno ti sta guardando? Pensi davvero che quando sei da solo nella cameretta Dio non ti sta guardando? Pensi davvero che quando sei da solo in bagno, con il tuo smartphone, con il tuo computer, Dio non ti sta guardando? Che quando sei in macchina con la tua ragazza, lui non è lì? Pensi davvero che lui non ci stia guardando? Ti spoglieresti mai davanti a una telecamera di una banca, del bancomat? Così mi è venuto adesso. No. Perché sai che qualcuno ti sta guardando. Sai che qualcuno ti sta guardando. Tu magari non vedi la telecamera, ma in realtà qualcuno ti sta guardando. E la cosa più brutta è che noi non ci rendiamo conto che Dio in quel momento ti sta guardando e sta soffrendo, sta piangendo, perché vede un suo figlio, una sua figlia, che sta firmando la sua condanna a morte per il resto della vita. E finché quel figlio e quella figlia non dice, come abbiamo fatto prima, spero molti di voi abbiano fatto, basta signori, io davvero voglio porre fine a tutto questo, voglio davvero essere diverso, voglio mettere un punto e un macigno sopra tutto questo, noi stiamo continuando a firmare la nostra condanna a morte. Io avevo prefissato una scaletta, però sento di cambiarla. Neanche per me è stato molto facile, neanche per me è facile essere trasparente. Non è molto semplice mostrare le cose che vivo, che penso. Vi dirò una delle cose che mi sono capitate, che è stato molto difficile per me. È arrivato un certo punto in cui io ero così stufo di tutto quello che avevo dentro, di tutto quello che avevo, di quello schifo che avevo in quella stanza, in quella stanza degli orrori, che ho detto, signore, io non ce la faccio più, mi sento così pieno, così pesante, che non è che lo voglio dire a una persona X, così magari io lo dico all'amico mio, perché tanto so che l'amico mio vive le mie stesse cose, e quindi dico, sicuramente mi capirà, già lo so che mi amerà comunque, già so la reazione che può avere. Però io ho detto, io voglio essere trasparente e lo voglio fare nel modo più difficile possibile. Io ti faccio una domanda, anzi no, dico io prima quello che ho fatto. Io ho parlato a mia moglie di tutte le schifezze che ho fatto, di tutti i pensieri che ho avuto e di quante volte comunque ho sbagliato quando mi masturbavo, e non è stato per niente facile. Diresti mai alla tua ragazza, sai, oggi mi sono masturbato, sai, oggi ho visto un film porno? Diresti mai al tuo ragazzo, sai, oggi mi sono visto con quel ragazzo e ti ho messo il collo? Non lo faresti mai. Perché? Perché è troppo pesante come cosa da dire, è troppo grossa come cosa da dire. Preferisci più prendere tutto questo gruzzoletto, così com'è, senza neanche ordinarlo, e buttarlo là dentro. Buttarlo in quella stanza dove tutto poi va a finire nel dimenticatoio e tu rimani lì. E usare una foglia per nascondersi, come hanno fatto Adamo ed Eva, non ci servirà a niente, perché la foglia non ti copre neanche... Sapete il titolo è questo, la foglia di fico non copre tutto, però in realtà io, quando ho mandato stamattina il messaggio a Sara, voglio dire la mia versione censurata, la foglia di fico non ti copre neanche le parti intime. E non serve a niente la foglia di fico. Vi faccio vedere un attimino il perché. Si può abbassare tutte le luci, compreso quelle del proiettore? Quanti hanno la foglia? Sapete che succede quando tu cerchi di nasconderti davanti a Dio, di nascondere tutto quello che tu fai in bagno, nella cameretta, nella macchina con il ragazzo o la ragazza, quando sei da solo? Questo succede quando tu cerchi di nasconderti con una foglia. A me l'attenzione. Potete cercare di nascondervi con la foglia? Tanto arriverò da voi adesso. Ecco. Andrea, come ti senti? Coperto? Sì? Ti senti coperto? Vediamo, così ti senti più coperto, aspetta. Ti senti più coperto, Andrea? Samuele, ti senti coperto? Questo è quello che succede quando noi pensiamo di non essere visti da nessuno, ma in realtà Dio ti sta guardando. E io non voglio fare il castigatore questa sera per dirti Dio ti guarda, il grande fratello ti sta guardando. Però ti voglio dire che non sei solo. Possiamo riaccendere la luce. Grazie Vito per la torcia. Era molto forte. E a volte, anziché utilizzare una foglia, noi utilizziamo, siamo pratici in questo, bravissimi, tutti quanti potremmo andare a teatro in realtà, o in un circo, meglio ancora. Siamo pratici nel metterci una bella maschera. Quindi noi facciamo la faccia brutta, ma in realtà abbiamo la faccia bella. Vedi come sta sorridendo? Oppure abbiamo la faccia incavolata, abbiamo la faccia triste. E quello in cui siamo pratici noi fare è metterci sempre queste maschere all'occorrenza proprio. Tipo, sono a casa, prima del live, non vi faccio alzare la mano. Prima del live mi preparo, quindi vado in bagno, mi faccio i capelli, nel frattempo pecco un po', poi mi metto la maschera, sono entrato in chiesa, non vi faccio alzare la mano. A quanti è successo? A me è successo. Non vi immagino, non potete capire quanto, anzi non lo capite, quanto è stato schifoso per me fare questo, quanto è stato difficile anche vivere in questa situazione per tanto tempo. Tutte queste cose non sono altro che una conseguenza di un'azione, cioè il fatto che noi non abbiamo avuto timore di Dio. E quello su cui voglio fermarmi oggi è il timore di Dio. Quanto tu hai timore di Dio? Quanto hai timore di Dio? Sapete cosa vuol dire avere timore? Non vuol dire avere paura che qualcuno ti giudichi o ti meni uno schiaffo o un ceffone, un cazzotto. Ma avere timore significa avere rispetto. Cioè, io rispetto Sara, ho timore di Sara perché io la rispetto. E la rispetto nel senso che se so che a Sara dà fastidio che io gli tiro i capelli, non glieli vado a tirare. Se so che a Luciana gli dà fastidio che io la stritolo, io non la vado a stritolare. Se so che a Mary gli dà fastidio quando io gli faccio il sollettico, non gli vado a fare il sollettico. Se so che a Marco gli dà fastidio che si è fatto i capelli e io vado a fare così, non glielo vado a fare. Non glielo vado a fare. Faresti mai qualcosa che il tuo amico, la tua amica, tuo padre, tua madre non vuole, che detesta, che tu fai? No, non lo faresti mai, perché conosci tuo padre, conosci tua madre, conosci il tuo amico, conosci tuo fratello, conosci tua sorella e sai quanto starebbero male a questo. Quindi cosa facciamo? Li rispettiamo. Allora perché, se conosciamo Dio e sappiamo che quello che stiamo facendo è sbagliato, non lo rispettiamo? Perché continuiamo facendo finta che lui non ti stia guardando, facendo finta che in realtà lui non ci sia, però c'è, con tutto che c'è la luce. La cosa più bella, quando dice nel Salmo 139, se lo puoi rimandare un attimo, Sara? È il verso 11, dall'11 al 13. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Quante volte ci siamo trovati a cantare questa canzone? L'anima mia riposa nel tuo immenso amore. Esamina il mio cuore. Esamina il mio cuore. Sapete cosa vuol dire esamina il mio cuore a Dio? State dicendo, entra in me, entra in quella stanza, entra in quella stanza, fai luce in quella stanza e togli tutto quello che c'è, togli tutto, tira tutto fuori. Io non voglio avere niente, non voglio avere più tutta quello schifo, non voglio avere un lucchetto che mi chiude a una stanza perché ho qualcosa di cui io me ne vergogno. Significa togliere tutto questo. Significa che le tenebre non fanno differenza per Dio. anche se sei a casa nel letto, se sei sveglio, se sei di mattina, se lo fai di sera, di giorno, se sbagli, quante volte vuoi, in ogni momento, lui è lì che ti sta guardando. Io ti voglio invitare davvero ad avere un santo timore di Dio, un santo timore di Dio. Ti do una cattiva notizia. Forse non ti sto dicendo nulla di nuovo, o forse ti sto dicendo qualcosa che per te è nuovo. E l'ho già detto un po' nel precedentemente. Io posso gettare tutto quello che io voglio in quella stanza. Posso gettare tutto la parte peggiore di me. Posso nascondere le persone con le maschere. Posso nascondermi con una foglia di fico. Ma a Dio non posso nascondere nulla. A Dio non puoi nascondere nulla. Non gli puoi nascondere niente. Lui sa tutto quello che tu hai vissuto. E ti comprende. E ti do un'altra buona notizia invece. Te ne do una buona. La notizia buona è Gesù. Lui ti ama profondamente. Ti ama profondamente. E quando dici sono solo, sto sbagliando, ti deve venire in mente questo. Pff, Gesù. Io ho scritto, non so per quanti lo vedono, in grassetto enorme, la buona notizia, Gesù. Perché non serve nascondersi con una foglia di fico davanti a Gesù. Non serve nascondere il peggio del peggio, perché tanto lui lo sa già. Lo sa già. Lo sa quello che hai fatto, lo sa quando hai sbagliato, lo sa quanto sei stato male, quanto ci hai provato, quanto non ci hai provato. Ma lui ti sta chiamando ad avere un timore, ad avere rispetto. Io ti sto chiamando ad avere rispetto, come ce l'ho io. Come ce l'ho io. La prima cosa che io ho fatto quando ho realizzato che Dio era con me, in ogni istante, se andavo giù, Lui era con me, se salivo su, Lui era con me. Signore, perdonami. Padre, perdonami. Perché io ho sbagliato. Perché io ho davvero sbagliato tante volte e non mi sono mai reso conto dell'errore che facevo. A volte lo sapevo e volontariamente continuavo a farlo. Lo sapevo. Perché tanto io sono cresciuto in chiesa, sono nato e cresciuto in chiesa. E nonostante questo non è servito a niente. Non è gli anni che tu passi in chiesa che ti portano a una santità maggiore. Puoi entrare oggi in chiesa ed avere più santità di me. Perché è quello che tu scegli di essere che determina chi tu sei, non quello che tu non scegli o quello che il peccato sceglie per te. Io vi voglio invitare ad alzare. E voglio invitare a pensare un attimo a quello che tu vivi, a quello che tu vivi con Dio, quello che tu vivi da solo. Mettiti tu davanti a Dio. Sentiti da solo davanti a Dio, perché ora tu sei da solo con Dio. Fai finta che non c'è nessuno qua dentro, che non sei circondato da nessuno, che non hai nessuno a destra, nessuno a sinistra. Non c'è proprio nessuno intorno a te, nessuno davanti a te, nessuno dietro di te. E di questo a Dio. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo. E conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, è meravigliosa, è meravigliosa. troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove potrei andarmene lontano dalla tua presenza? Dove fuggirò? Certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che mi hai formato. Tu che hai intessuto, mi hai intessuto nel seno di mia madre. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza, Signore? Fermati da solo davanti a Dio e ripetiti queste domande. Cantale. Confessale. Inginocchiati. Piangi. Stai zitto. Grida. Vai da qualcuno e parla. Non puoi nasconderti da Dio. Abbi quel santo timore. Puoi iniziare a chiedergli perdono. Amen.